cantarvi io sdegno. Spezzato in eccio, ai degno di tanta crudeltà. Tuo furore di un trionfera, l'avaro tuo furore non più non trionfera della bella dolente d'un innocente amore. L'avaro più niente, io più felice ragazze gobi amanti. Non fuggite obietti santi della mia felicità. Non fuggite, orienti stanti della mia felicità. Non fuggite, orienti stanti della mia felicità. Felicità, non fuggite o niente istanti della mia felicità, niente istanti della mia.